po' sempre meno romantico, dopo aver sentito gli ingrati fischi al tuo minuto di silenzio ho capito che ho fatto il pieno, non è più il mio mondo. Quindi mi levo il cappello davanti a te, rombo di tuono, autentica bandiera e leggenda del calcio italiano. Ciao Gigi. È una palla 2 atipica, è una palla 2 per un saluto a un grande campione di cui ho dato citazione, poi faremo approfondimento anche nella neonata rubrica Salvati in angolo con Sergio Fanti. Rombo di tuono Gigi Riva ci saluta, lascia comunque un'indelebile, importante presenza dal punto di vista della correttezza, della signorilità, della rettitudine, della sportività e della concretezza anche ovviamente calcistica. Un campione, come si dice, al di fuori del campo, un campione in campo, un esempio. Grazie Paolo per aver dato questo tuo contributo per quanto riguarda il commiato a Gigi Riva, seppur all'interno del Mood Groove, un mondo dello sport che a catena e a cascata si comprende con tutti i motivi di eversione, tra episodi di razzismo e episodi di violenza, con quello che è un contemporaneo purtroppo preoccupante, con il Mood Groove che non vuole essere solo un memorabilia ma vuole essere anche importante per dare un'utopica, un'ipotetica continuità con quello che magari era un altro basket e un altro calcio. E con grande caparbietà butta al cuore oltre l'ostacolo, nonostante qualche problema vocale, Pietro Rossi, Rookie of the Year. Buongiorno Pietro. Buongiorno Willy. Oh mamma. Accidenti. Mia. Oh mamma mia. Allora, quest'oggi do un po' di notizie per quanto riguarda la puntata odierna. Qualche settimana fa feci uno speciale sulla regina di coppe, Cantù. Cantù esiste ancora nella pallacanestro odierna, nella massima serie oppure in qualche serie minore? Chiedo notizie a te. Fino a qualche anno fa sì. Non so se sia in Serie A o in Serie A2 ora, però sì. Però c'è ancora la regina di coppe di questo piccolo paese importante per i mobilifici. Ha avuto oltretutto anche un aspetto ancora più importante che la portata nel mondo. A2. A2, ok. A2. Informazione arrivata puntuale nonostante le difficoltà verbali in questo caso. Importanza cestistica, una grandissima passione. Una passione che la porta nelle vette d'Europa, tanto più che viene chiamata la regina di coppe. Coraggioso il coach italiano, secondo me più importante, quello che ammiro di più, che è Valerio Bianchini, è riuscito a vincerlo, a far vincere lo scudetto, mi pare, correggetemi se mi sbaglio, anche alla Fortitudo, per cui è riuscito veramente in imprese importanti, oltre che Cantù sulla vetta d'Europa, anche con Pesaro, nella Pesaro più forte di tutti i tempi, Darren Day, Darwin Cook, insomma un coach che ha anche il coraggio di portare il primo taglio tecnico per quanto riguarda gli stranieri. Sapete, due stranieri per formazione, quando ancora si parlava di vero basket, arrivano Stotts e Flowers per Cantù. Stotts è un ottimo giocatore, è un tiratore molto preciso, è un giocatore ordinato. Per Bianchini però manca qualcosa, dice è fortissimo, è un ragazzo estremamente affidabile, ma purtroppo noi abbiamo bisogno di qualcosa di più dal punto di vista della solidità, dei rimbalzi, della difesa, e quindi ai si incorre nel primo taglio tecnico. Cosa significa? Significa interrompere il contratto, mettere fuori strada lo straniero, in questo caso USA, col quale si è dato inizio al campionato, per sostituire e prendere un altro atleta. Tutto ciò di solito avveniva solo per motivi fisici, solo per infortunio grave che impediva all'atleta stesso di portare avanti i percorsi di campionato. In questo caso sarà nella storia della pallacanestro il primo taglio per motivi tecnici. Oddio, motivi tecnici che poi oltretutto, insomma, avvenuti in maniera, come ho detto, molto coraggiosi, perché Charlie Stotts era un ottimo giocatore. pensa, non so se hai letto alcune notizie, lo tengono all'oscuro di tutto ciò, no? Terry Stotts non sa del taglio perché il motivo per cui viene tagliato, ossia Boswell è nascosto in un albergo. E sta devastando l'albergo, esatto, tra quindi, l'altro. Come dire, la copertura non regge. No, non regge più di tanto perché lo devono portare fuori dall'albergo, perché lo stesso Boswell, appena arrivato in Lombardia, inizia a creare dei problemi comportamentali veramente molto importanti. Devasta l'albergo, è alla ricerca di sostanze stupefacenti, per cui decidono di portarlo fuori da tale sistemazione. E Stotts si accorge con la presenza di Boswell a vedere la partita che qualcosa non torna, c'è qualcosa che non va, insomma. Oltretutto in quella partita lui chiuderà con 28 punti. Esatto, esatto. Tra l'altro Stotts è diventato un ottimo coach NBA. Sì, addirittura, dai. Ha portato Portland alle finali di conference nel 2019. Non sapevo questo, grazie per la precisazione. Ma in effetti quello che poi tecnicamente rappresentava nel parquet ci credo che sia stato rappresentato in una posta carriera importante, sempre legato alla grande pallacanestro. Boswell, le caratteristiche ne parleremo, ma quello che più darà importanza alla sua breve apparizione italiana è che vince campionato e Coppa delle Coppe pur in un anno. Stando, sì, in un anno, ma no, meno. Sì, meno, esatto, cioè, 8 mesi, 7 in corso di campionato 1980-1981. Vincerà la finale per quanto riguarda il campionato italiano con la Virtus in Udine contro la Virtus in Udine. Sarà una presenza e un giocatore fondamentale. Caratterialmente qualche problemino l'ha creato, direi. Ma chi scompare, ma chi non ce l'ha, voglio dire. Scompare completamente. Quando ho fatto la puntata dedicata alla regina di coppe, dedicata a Cantù, mi sono soffermato su questo personaggio. Perché? Perché dopo un ritorno negli Stati Uniti d'America, dopo essere stato prima scelta per i Boston Celtics, dopo aver fatto un'apparizione anche a Utah e dei campionati in cui è andato in doppia cifra, sì, anche, sì, per cui ha giocato, ha fatto la squadra ampiamente, beh, non si sa più niente. È stato arrestato, fra l'altro ha fatto anche 2 stagioni non in NBA ma in gagliuffa, ha visto il sole a scacchi, come si può dire, e poi di lui resta una misteriosa figurina con la divisa dei Boston Celtics. Non so se sia vero, ma a quanto pare lui smentisce per quello che è poi l'intervista di cui parleremo a breve con l'ospite Max De Giovanni. Anche lui un po' indisciplinato, vediamo. Lui è DJ, produttore, appassionato di pallacanestro, ci siamo conosciuti per motivi di Moved Groove, quindi insomma questo che ha unito la nostra passione con la musica e lo sport ci ha portato in contatto. Questo ha detto, ma io ho possibilità di ricontattare, di trovare, di fare ricerca, ed è arrivata un'intervista dove troviamo un Tom Boswell, sì, ok, assolutamente dà l'idea di essere un personaggio sopra le righe, ma anche molto disciplinato per certe lucido. Cose lucido, sì, ecco, sì, lucido. A tra poco. We'll be right back. E riparte la nostra sigla e la nostra base, ce l'abbiamo fatta. Sarò in debito con Max Di Giovanni, produttore, DJ, appassionato di musica. L'ho conosciuto attraverso appunto la nostra passione comune, che è la musica, tra il funky, soul and groove, non solo, ma anche per la pallacanestro. Tra l'altro si diletta ancora a calcare i parquet amatoriali, una levataccia per lui, ma puntuale in diretta. Buongiorno Max. Ciao William, ciao, grazie per l'invito. Ma grazie a te. Intanto ci siamo, per così dire, approfonditi nella nostra passione attraverso una puntata che qualche settimana fa ho dato al Mood Groove, dedicata alla Regina di Coppe, cioè a Cantù. Ovviamente non ho potuto esimermi nel parlare di Tom Boswell, che è misteriosamente, non si hanno notizie insomma di questo atleta, che per così pochi mesi di presenza in campionato ha avuto risultati di squadra veramente molto incisivi. Una scelta coraggiosa da parte di Cantù, prendere un atleta così indisciplinato, l'arresto e poi la scomparsa dello stesso protagonista. Tu mi hai riportato attraverso il tuo blog un'intervista, ci puoi parlare un po' di questo ritrovamento, Max? Guarda, io sono sempre stato affascinato da questo atleta, che ho visto giocare solo in televisione. Arrivato, ha stravolto la squadra, hanno vinto tutto ed è sparito. E sì, mi ha affascinato questa storia. Era da anni così che mi chiedevo dove sarà, dove sarà. Ho provato a fare una ricerca, ho scritto quello che pensavo potesse essere il suo recapito, e dopo qualche mese, dopo 3 mesi, mi ha contattato il suo più caro amico, perché Tom è estremamente analogico, non ha email, non ha... In questo condivido, ecco. E niente, Tom è ancora tra noi, è sparito dalla pallacanestro dall'84, insomma, la sua ultima apparizione con gli Utah Jazz. Sì. È qua con noi, ha avuto il piacere di essere ricordato, contattato, e insomma il suo passato illustre è tornato, e con lui un giocatore estremamente orgoglioso. Sì, ho notato. E poi magari ho notato una sorta di non dico supponenza, ma quasi, insomma, molte precisazioni nell'intervista. Sono stato io il miglior realizzatore di quell'incontro, Bruce Flowers ha avuto esperienza solo in NCAA, quindi ero io l'atleta che portava e faceva la differenza. Indubbiamente un atleta di cui darò anche descrizione tecnica, e a me piaceva tantissimo la sua capacità a dispetto del carattere estremamente ordinata in campo. Poi le singole circostanze lo hanno portato a percorsi di vita tutt'altro che disciplinati. Comunque sì, non hai trovato anche tu alcune contraddizioni tra la lucidità delle risposte e il suo carattere un po' così, un po' irascibile, Max? Sì, senza dubbio. Io sono rimasto colpito da alcune cose. Uno, dall'estrema lucidità con la quale ricordavo alcune cose, e dal grande orgoglio con la quale mi ha dato alcune precisazioni. Intanto credo che i suoi anni siano rimasti a Boston. Sì. A Boston si è trovato bene con Coach Tom Heinsohn, con JoJo White, che è mancato 14 anni fa, pochi giorni, l'anniversario era pochi giorni. JoJo White era un grandissimo atleta, la cui maglia è ritirato, gli ha preso a Boston Gare numero 10 o 12 adesso in questo momento. 10. Non... da 10. Bostoniano ti dico 10. Perfetto. insomma, quando precisa alcune cose, a Boston eravamo mentalizzati, sapevamo che avremmo vinto il titolo, quindi una realtà vincente. Lui si è calato in una mentalità vincente, e è riuscito a esprimere la sua pallacanestro per tre anni nei quali ha vinto appunto l'anello. E ci tiene a precisare che sì, ha vinto lo scudetto con Grandua, ha vinto la Coppa, però essere campione NBA è un'altra cosa. Sì, aspetta. Sì. E soprattutto fa un parallelo con Utah. E io credo che il trasferimento prima Denver, poi Utah abbia sia stato veramente ciò che non lo ha aiutato per niente, no, nel trovare il suo equilibrio nel mondo, perché insomma, lo dice tranquillamente, insomma, era una mentalità vincente. Utah è un'altra roba, è un'altra cosa, una mentalità completamente diversa, una squadra che non aveva come, certo, come obiettivo quello di vincere, non era mentalità, non era preparata. Sì. Non so se sa se sia leggenda o meno, però insomma pare che lui sia arrivato a Cantù dopo essere stato tagliato da Utah per un episodio increscioso con un vice allenatore. Quindi sì, lui ha steso con un pugno in faccia il vice allenatore, si diceva, e quindi sparisci, non ti vogliamo più vedere. Poi in più guarda comunque come le sliding doors, i what if siano particolari, anche le casualità che il destino riporta. Lui è un giocatore assolutamente intelligente, vincente, buono fronte canestro come vicino e sotto le plance, costante, presente in difesa, punti nelle mani, un tiro più che educato, una capacità di lettura della partita, come abbiamo già detto, la mentalità vincente e quant'altro. A Boston se ne accorgono. Tom Henson dice: lo voglio assolutamente nonostante tutto. Queste caratteristiche, e oltretutto giocava a Boston con il numero 31, pensa se con altri what if e altri percorsi magari poteva esserci Tom Boswell e non Cedric Maxwell. Ecco, per dire la prima cosa che mi è venuta in mente. Ed è veramente particolare a volte la vita degli atleti, anche secondo me andrà in una sorta di depressione cestistica con la sua cessione da Boston al club di Utah, alla franchigia, scusa, di Utah. Per lui è stato un motivo di delusione veramente molto molto forte. Come ho detto, arriva in Italia, è un giocatore assolutamente completo, per fare un esempio del basket che parliamo noi, anche se magari più vicino a canestro uno Scott May, un Tellis Frank per quanto riguarda la caserta, campione d'Italia con Charles Shackleford, un giocatore totale, un giocatore di sostanza ma nello stesso tempo anche del carisma nei momenti importanti, e si è visto, ha vinto tutto insomma, quindi ha vinto tutto. Sì, sì, ha vinto tutto. Di Bianchini, di saper gestire, parla anche di coach Bianchini lui nell'intervista, Max. Sì, sì, sì, lui si è trovato, mi dice di essersi trovato molto bene, anche se la barriera linguistica era importante e faticava a capire ciò che il coach gli chiedeva in certi momenti. Non è un caso, come mi ha raccontato Tonello Riva, che lui era in trasferta e in stanza con Denise Innocentini, sì, perché era l'unico che parlava inglese. E la barriera linguistica è una cosa di cui Tom parla molto. Io non parlavo inglese, ho fatto fatica all'inizio, non riuscivo a comunicare. La svolta è stata quando è riuscito a incontrare, oltre a Innocentini, un paio di ragazzi, uno è il figlio del medico sociale, e che parlavano inglese, e quindi ha iniziato un po' a inserirsi in questa nuova realtà, ecco. Ma non è stato semplice, insomma, certo. In quegli anni era molto difficile andare via da casa, trovarsi in un posto completamente nuovo. Sai dove si è trovato molto bene, oltre che sul parquet? Anche in trattoria, la passione per i gnocchi e la pasta. Lui dice: per me la cucina italiana è un'eccellenza, come dargli torto del resto. E conoscevo due o tre trattorie e diceva che assolutamente hanno cambiato la mia vita enogastronomica. Altri momenti per questo misterioso giocatore, chiedi se ha più avuto contatti con l'università South Carolina, tra l'altro il compagno di università, il fenomeno, uno dei più probabilmente dopo George Gervin il più grande terminale degli anni di vero basket, che è Alex English. L'abbiamo visto anche in Italia ampiamente a fine carriera, è stato a South Carolina con Tom Boswell e lo stesso Tom dirà: non andavo molto d'accordo con... strano che non andasse d'accordo, però, ma che strano, però insomma c'è stato anche questo contatto. La sua carriera poi viene interrotta con 2 anni di detenzione, di arresto, e poi non se ne sa. Guarda, lui mi ha raccontato che ha giocato nella CBA nel Montana. È vero, è vero, sì, quindi boh, anche questo è un altro aspetto che ci porta ad indagare con maggior precisione. Però insomma, un giocatore che oltre ad avere una vita rocambolesca ha dato anche dei risultati quanto mai importanti quando ancora si chiamava pallacanestro. Max, tu di dove sei esattamente? Lugo di Ravenna. Ok, non siamo tanto distanti, voglio dire. No, e no. Ti diletti ancora sul parquet? Ci dilettiamo ancora nei campionati over 40 e 50 della WISP bolognese, quindi sono spesso in città. Certo. A giocare con i tuoi compaesani, con qualche magari tuo ex avversario. Può essere, visto l'età, anche se io vado ben oltre i 40. Però so che sei un DJ e che ci accomuna anche, ci siamo scambiati anche dei titoli, dei lavori, dei dischi tra funky and soul, e procedi con questa attività? Sì. Okay. D'estate molto più che in inverno, ma assolutamente, ecco. Ho capito. Ascolta, io ti ringrazio tantissimo per questa breve conversazione che è andata a corredare una biografia di un atleta particolare quanto talentuoso. Ti do appuntamento a un altro Moved Groove del martedì su Radio Città Fujiko, e che dire, ti auguro una buona giornata, sappi che sono in debito e sei creditore di una colazione. No, è stato un piacere. Intanto un saluto, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, e Tom si è raccomandato di portare tutti i suoi saluti ai suoi fans, certo, canturini, ma io direi anche bolognesi, sì, perché nella finale dell'81 purtroppo i bolognesi sì, hanno pagato il talento di con McMillan e Marchignos infortunati nella famosa gara 3, nella sì, quale il nostro amico Marco Bonamico con 29 punti non riuscì a contrastare. Esatto, esattamente. Ok, grazie infinite, al prossimo incontro e buona giornata. Ciao Max. Ciao. Ragazzi, buono come il pane, è arrivato qua perché era troppo scapestrato, se no penso che non l'avremmo mai visto nelle nostre terre. Diciamo che ai tempi, per un afroamericano finire nella città dei mormoni, bene ma non benissimo, eh. Pietro, che personaggi che c'erano, erano oltre che talentuosi, però storie di vita incredibili. Anni 70 in tutti i sensi. Esatto, tra l'altro Boswell è del draft del 75 e chi è stata la prima scelta? Thompson, un altro che, come dire, un gran personaggio. ai tempi del college fu allontanato perché di nascosto, senza farsi riconoscere, in gran segreto andò a ballare in una famosa discoteca, no? Però dice, beh, come posso fare? Voglio andare assolutamente, beh, ci vado in incognito. Sai cosa si è messo come abbigliamento? Il giubbotto della università col suo nome dietro. Quando non è furbo. Una furbizia willesca, direi. Comunque, alle 8 e 32 minuti lasciamo finire The Hank of Heaven, andiamo in pubblicità e poi si ritorna sul 103.1 al Mood Groove. Story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know you're buckier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. Questa ultima parte Nina Simone ci riaccompagna in diretta, Paolo Onofri da remoto che dà un contributo con un altro protagonista che si è fatto riconoscere in circostanze ben più gravi. Comunque avremo modo di ascoltare anche il contributo che ha dato agli Indisciplinati un grandissimo giocatore come Marvin Barnes, soprannominato Bad News, cioè quando lui è presente ci sono cattive notizie. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. Sì, anche lui ha fatto una rapina. Beh, che sarà mai, dai. Che sarà mai, hai capito? Anche lui si è fatto riconoscere per lo stesso motivo, con la divisa del college. Ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say. I'm around, let's see what you do. You know you. Yeah, then a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Nel bene e nel male, io non so se vi sono ancora figure nel contemporaneo che hanno queste caratteristiche. Questa decadenza cestistica, come ho detto, ha portato anche un senso di appiattimento per quanto riguarda gli aspetti caratteriali. Non sto esaltando gli Indisciplinati, sto semplicemente evidenziando una varietà anche nel carattere ben diverso per quanto riguarda le epoche, i percorsi, che nella mentalità al di più che nella tecnica vanno a comporre quello che una volta era un arcobaleno di sensazioni che oramai è diventato assolutamente monocromatico, sia tecnicamente che anche mentalmente. Poi le carriere di adesso sono assolutamente veloci, rapide, non ci sono più un aspetto per così dire di bandiera, ecco, di atleti che rappresentano. Non sono mai stato un tifoso delle bandiere, però mi rendo conto della loro importanza e di come di pari passo tutto ciò stia portando a un aspetto diverso il mondo dello sport. Ne ha combinate di ogni, addirittura in un amichevole contro Venezia incontra un altro grandissimo, una testa calda e seppur grande talento, il doge di Venezia, Spencer Haywood, e così chiacchierano e dice: ehi Tom, ma tu quanto prendi? Per quanto sei sotto contratto? E lui dice la cifra: ma io prendo molto di più. Questo cosa fa? Chiude nel suo ufficio allievi il direttore generale di Cantù e lo minaccia che vuole un adeguamento al suo contratto. E sciopera. Certo, sciopera. Non va allenamento. No. Oh, questo invece è un esempio, vedi? Lui è prendiamolo stato... come modello. Prendiamolo come esempio, se vogliamo, per quanto riguarda una lotta di adeguamento salariale. Verso Rocco Pandiani per Rai Tempo, produttore che ai tempi della C-Jazz, con sguardo italiano e capacità, competenza, passione nella musica, ha saputo poi portare avanti e dare spazio a quello che è stata un radice, se vogliamo, permettetemi poi, a C-Jazz in futuro in Italia. Sono arrivato a questo vinile per la Mono Jazz, una progressiva realtà in seguito a Right Tempo. Lui è Gino Marinacci. A proposito di figure, tu aspetti Gino Marinacci e ti senti questo groove, questo soul, e invece è esattamente così. Il disco è Atom Flowers e il brano che stiamo ascoltando è Space. Identikit più approfondito, nato dalla Regina di Coppe, Cantù fra l'altro, che ha avuto un vivaio importantissimo, da quale è uscito Antonello Riva, che per me ricordi Antonello Riva, certo. Magari anche tu, nonostante la giovane età, ma la passione e la competenza non ti portano a sfuggire di quello che secondo me è stato la guardia tiratrice italiana più forte in assoluto, un realizzatore ancor più che un tiratore, un giocatore fisicamente molto dotato, un terminale offensivo che ha portato a Cantù non solo punti ma anche trofei, e atleti stranieri che non avessero 30 punti nelle mani ma che sapessero far girare la squadra. Tom Boswell direi che ne è un esempio quanto mai attinente, no? Con un team di italiani tra cui Marzorati, playmaker assoluto. Antonello Riva formava una backcourt tra i più importanti in Italia. Ovviamente la parte per USA deve essere un aspetto più dedicato a un gioco di squadra più che a un aspetto terminale offensivo, e per Valerio Bianchini così è stato e i risultati sono arrivati. Grandissimo realizzatore, scusa Willy, tiratore costruito in palestra a tirare centinaia e centinaia di palloni nel cesto. Sono d'accordo anch'io, la miglior guardia del campionato italiano mai vista. Allora, ti do qualche anticipazione, ma già magari ne hai avuto sentore prima della conclusione di questo Mood Group. Abbiamo in programma, insieme a Paolo Zanardi, che saluto e che aspetto per le prossime puntate, di dedicare uno speciale ai grandi fondoschiena, né nel senso di fortuna né nel senso fantastico, come posso dire, ma che bel fondoschiena, no grandi, proprio grandi. Il primo che mi viene in mente a me è Charles Barkley, quello... pensato subito a lui. Buongiorno Move to Groove, mi corregge Lino, grazie, ma sai, io già non seguivo più, quindi mi sento abbastanza innocente per questo mio refuso. Grazie Lino per il lungo motivo di approfondimento. Fortitudo vinse i titoli con Recalcati, quindi Cantù e Repesa. Riguardo a Riva, un aneddoto: quando Berlusconi scese in campo apparve la notizia che uno dei suoi candidati avrebbe dovuto essere proprio Riva. Non lo sapevo. Il padre di un mio collega gli scrisse una lettera dicendogli che lui era un simbolo nazionale e che non avrebbe dovuto schierarsi da nessuna parte, aggiungiamo anche da quella parte. Riva gli rispose che la lettera lo aveva fatto riflettere e che aveva ragione, pertanto non si candidava. Ali. Come fede. Una piccola nota, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io poi ho un'affezione per Riva perché ricordo che massacrava, era l'anti-Virtus per eccellenza. Contro la Virtus aveva delle percentuali e delle partite, veramente la portava al massacro. E quindi dai, mi sta anche simpata. Parola torna indietro, non voglio assolutamente... per carità. Da fondoschiena andò anche a bottega da un altro che di fondoschiena se la cavava bene, un certo Moses Malone. È vero, Moses Malone, più grande rimbalzista di tutti i tempi, parleremo anche di lui. Ovviamente, per quanto riguarda l'Italia, chissà se riesco a mettermi in contatto col mio amico ex compagno di squadra Emiliano Neri, e insomma avremo modo di portare una specificità nel fisico degli atleti che nella pallacanestro, tra prendere posizione, taglia fuori e quant'altro, direi che è utile, eh? Ah, uno strumento importante. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina con Silvia Albertazzi, Stefano Calanchi, le due pubblicazioni che presenteremo e che saranno per voi tramite quiz al 333-1809-494 per la giornata odierna. A breve di Pio Enciclopedico, segue Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Attenzione, oggi il vinile quotidiano, format che andava e metteva a disposizione ai tempi di Radio Città per voi la possibilità dell'ascolto e perché no ai tempi anche della registrazione di un disco in vinile per intero senza che il DJ o lo speaker intervenisse, ora trasformato in un format settimanale che contiene però due vinili, riportato il titolo, alcune correzioni, ma la qualità non manca. Conduce e porta i microfoni di Radio Città Fusico all'ascolto di questi percorsi il nostro Andrea Gozza. Mi raccomando, il format è dalle 10.30 alle 12.30. Il tè l'hai preso, qualcosa di caldo magari, adesso rimettiti. Settimana prossima sarò in forma. Questa è stata una puntata dove hai dato minuti di qualità, come si dice. Grazie anche a Paolo Onofri da remoto. Il Mood Groove vi augura il gran completo, una buonissima giornata e un buon ascolto sui 103.1 e perché no, un buon martedì imprevedibile. È arrivato anche un raggio di sole, quindi che sia di buon auspicio. E dal vostro William Piana, ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao Pietro!